e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, è arrivato l'atteso venerdì, pronti a goderci il fine settimana, ma naturalmente magari faremo storcere un po' il naso a qualcuno, perché da lunedì si pagano delle tasse che erano per la verità attese. È presente la famosa tassa ribattezzata Airbnb? Sì. Si passa la cassa lunedì prossimo, cara mia. Tanto. Racconteremo tutto. Una in più, una in meno. Esatto. Beh, questa qua, almeno io e te, credo che non la paghiamo. Ecco, ce ne abbiamo un'altra di bella lista. Sì. Non ci mancano. Rispettare. Questa no, esatto, però. Poi, e quindi io cercherò di capire come funziona da lunedì e dalle 11 in avanti. Invece sai che c'è già stata la prima rogna dei cieli. Già qualche compagnia aerea ha fatto andare di traverso le vacanze a un po' di italiani. Sempre lo stesso copione. Uguale, no, ma poi il tema è che è quasi sempre la stessa compagnia che causa questi disagi, per cui l'occasione è propizia per rifare un po' il punto della situazione su tutte quelle che sono le tutele da tenere bene in testa in questo periodo, se siamo dei passeggeri di un volo e se questo volo insomma va storto, cosa dobbiamo rivendicare alla compagnia che ci ha mandato di traverso le vacanze. Quindi, o il viaggio. Quindi aprite bene le orecchie. Brava. 800 24 00 24, ma anche gli occhioni, ammiccate, osservate e twittate. Raccontateci che cosa state guardando mentre ci ascoltate e fatelo in 140 caratteri. Intanto noi nella seconda parte della trasmissione raccoglieremo naturalmente tutte le vostre osservazioni, le vostre domande, i vostri dubbi, e parleremo della salute dei nostri occhi con un grande esperto e della salute degli occhi anche dei nostri bambini, quindi non perdete questa occasione. Soprattutto cercheremo di aprire gli occhi di fronte alle tante bufale che leggiamo sul web. Quindi seguiteci, chiamateci e noi vi aspettiamo. Dove eravamo rimasti? Allora, cara mia, questa non è una bufala. Da lunedì si paga. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che si parte. Ci eravamo lasciati a metà giugno con pronta a partire la ribattezzata, soprannominata tassa Airbnb, ovvero l'obbligo per tutti i proprietari che affittano casa con l'affitto breve, o meglio per gli intermediari immobiliari, quindi anche i portali online come Airbnb, di operare le ritenute del 21%, pagare la cosiddetta cedolare secca. Adesso si parte davvero, perché proprio due giorni fa sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate le istruzioni per gli operatori che mettono in contatto persone in cerca di un alloggio con chi dispone di un immobile da affittare per periodi brevi. Ricordiamo che questa nuova forma fiscale, la nuova fiscalità, era stata decisa nell'ambito della manovra correttiva 2017, decreto legge 50 di quest'anno, una misura che ha previsto anche che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione dei portali online, appunto devono comunicare al fisco i dati sui contratti e trattenere una somma pari al 21% se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi. Tutto facile? Chissà se sono tutti pronti a partire con l'alleggerimento del portafoglio di lunedì prossimo. Intanto chiediamo anche agli ascoltatori di chiamarci all'800 24 00 24. Se affittate il vostro appartamento e avete scelto di farlo per periodi brevi, vi affidate a questi siti o comunque a quali tipi di intermediari, o se avete già avuto delle informazioni rispetto all'introduzione di questa norma e al pagamento che va fatto lunedì. Cristiano Dell'Oste è pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Ben ritrovato Cristiano, ciao. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Il Sole 24 Ore già ne scrive diffusamente da due giorni a questa parte, e anche oggi ci si ritorna sulle pagine di Norme e Tributi con un pezzo intitolato "Affitti brevi vanno pagate anche le ritenute non effettuate", perché effettivamente a giugno c'è magari qualcuno che ha provato a fare il furbetto del quartierino o dell'affittino. Vabbè, adesso a parte le battute spiegheremo bene che cosa è successo. Allora Cristiano, si doveva partire i primi di giugno, ci è voluta qualche settimana in più, ma adesso non ci sono più scuse. Cosa contengono esattamente le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate diffuse due giorni fa? Guarda, qui siamo di fronte a uno di quei casi in cui le istruzioni arrivano veramente alla vigilia o all'antivigilia dell'appuntamento. Esatto, perché, con un bel weekend in mezzo peraltro. Esatto, perché la norma base, diciamo, dice che le ritenute vanno versate il 16, entro il giorno 16, che è appunto dopodomani, domenica, quindi si slitta a lunedì 17, dicevo entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate. Quindi in qualche modo le ritenute che sono state effettuate nel mese di giugno, esatto, o che avrebbero dovuto essere effettuate nel mese di giugno, sono in scadenza per il versamento entro il 17, entro lunedì. Ma qui cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando, di quale ritenuta. Allora, stiamo parlando in pratica della ritenuta pari al 21% degli affitti, dei canoni del mese di giugno, che gli intermediari hanno incassato per conto dei privati, dei proprietari, che hanno dato in locazione delle abitazioni con contratti brevi, cioè con contratti che hanno una durata non superiore a 30 giorni. Però va fatta subito una precisazione importante. Stiamo parlando, perché ce l'ha detto le entrate, ce l'hanno detto le entrate nel provvedimento, dei contratti stipulati dal primo giugno. Quindi, se io ho un contratto stipulato in data 20 maggio, per il quale sono stati versati a giugno dei canoni, e per il quale verranno versati magari ancora dei canoni anche a luglio e ad agosto, questi canoni, siccome si riferiscono a un contratto che è stato firmato in data anteriore al primo giugno, non sono soggetti a ritenuta. Quindi questo è il primo discrimine importante. Esatto, e non indifferente. La esatto. data fa la differenza. Esattamente. Eh? Poi un'altra cosa importante da dire è che la ritenuta non la possono pagare i proprietari, neanche se vogliono, i locatori, diciamo, coloro che hanno dato in locazione l'immobile. Quindi se io mi sono appoggiato a un intermediario che può essere l'online, ma può essere anche un agente immobiliare, può essere anche un agente immobiliare fisico, assolutamente sì, tutti gli intermediari, quindi anche l'agenzia immobiliare, e questa agenzia immobiliare per un contratto stipulato il 15 di giugno che durava 5 giorni ha incassato il canone l'agenzia e me l'ha riversato interamente, quindi non mi ha praticato nessuna ritenuta. Non posso dire ecco la pago io, no, perché a dover versare la ritenuta è l'intermediario. Si apre un problema poi dopo vedremo. Esatto. Però no, diciamo magari subito... chiariamolo subito, perché proprio questo è il pezzo di stamattina sul Sole 24. Eh sì, perché ci sono tre alternative. L'intermediario teoricamente deve andare a ribussare alla porta al proprietario, non ha fatto il suo dovere e deve chiedergli adesso appunto di ritornargli indietro questo denaro. Allora, ci sono tre alternative. La prima alternativa è che l'intermediario viene da me, mi dice mi devi dare il 21%, me lo devi restituire, così io lo verso all'erario. Ovviamente tutto questo da fare entro lunedì non è semplicissimo, esatto, e non è semplicissimo in generale farselo restituire. Sì. La seconda è che l'intermediario anticipa il denaro, e questa mi sembra lo scenario veramente più improbabile, sperando poi di farselo ridare dal proprietario. Però... La terza è che l'intermediario, non avendo praticato la ritenuta, non la versa e va a invocare, nel caso dovesse subire dei controlli, la situazione di oggettiva incertezza della norma, perché poi noi a volte ce lo dimentichiamo, ma nello statuto del contribuente sta scritto che non dovrebbero essere messi obblighi fiscali senza dare un preavviso, udite udite, di 60 giorni. Esatto, poi c'è tutta qui 60 giorni ce li siamo dimenticati. Esatto. Prevedo che la verseranno in pochi. Esatto, detto questo, insomma, se si giustificano col fatto che stiamo parlando dell'ennesima giungla di norme all'interno della quale lì non poi ci bisogna, si riesce a districare, hanno bisogna, anche bisogna vedere hanno cosa, anche ragione. Cosa accadrà. Quindi però diciamo che questa è la situazione in cui ci troviamo oggi. Vabbè, però ammettiamo che tutti abbiano fatto le cose regolarmente, diciamo che ecco lunedì prossimo scatta proprio il pagamento e la data di versamento. Una cosa che mancava, perché siamo partiti in ritardo, mancava il famoso codice tributo, certo, con cui effettuare appunto il pagamento. Cristiano, siamo a posto con questo, quindi diciamo che i tasselli applicativi ci sono tutti. Adesso bisognerà andare a regime, superando le difficoltà che sono per lo più di tipo pratico in questa fase iniziale. Quali sono, perché, per esempio? Beh, la prima è che molti intermediari potrebbero non aver fatto la ritenuta. La seconda è che i proprietari dovranno, una volta che gli è stata applicata la ritenuta, imparare a gestire la situazione nella dichiarazione dei redditi. Perché si dice che questa ritenuta è la cedolare secca. Attenzione, non proprio. Questa è una ritenuta che vale come cedolare secca ed esaurisce il prelievo se il proprietario opta per la cedolare secca in dichiarazione dei redditi l'anno prossimo. Quindi quando la presenta. Ecco. Se invece il proprietario non ha interesse a optare per la cedolare secca, questa ritenuta sarà una ritenuta a titolo di acconto sull'IRPEF e andrà a calcolare normalmente l'IRPEF indicando il canone che ha percepito. Domandina da WhatsApp: ma se il pagamento viene pagato una parte all'intermediario e una parte al check-in, ci scrive Leo? Check-in? Non lo check-in so. Presumo all'ingresso nella casa, quindi direttamente okay. al proprietario? Allora, questo è un caso, diciamo, nuovo, nel senso che le istruzioni non lo prevedono, perché poi la varietà dei casi... Ci sarà. La prima interpretazione logica che mi viene da suggerire è che ovviamente l'intermediario può applicare la ritenuta solo sulle somme che lui incassa. Le somme incassate direttamente dal proprietario non saranno soggette a ritenuta, perché non transitano nella... nella, diciamo, nelle mani dell'intermediario. Piccolo problema: se però io nel contratto ho scritto che il canone è 3.000 e 1.500 vanno tramite l'intermediario e 1.500 li prendo io direttamente, e beh, bisognerà poi gestire a livello di comunicazione, certo, e spiegare, poi ci sarà anche un obbligo di comunicazione alle entrate, perché io ho fatto la ritenuta solo su 1.500, infatti, perché gli altri 1.500 non li ho presi io, ma li ha presi direttamente. Allora, sugli obblighi peraltro di comunicazione torneremo fra qualche istante, adesso c'è il traffico, intanto 800 24 00 24 per le vostre domande in diretta. Si sono candidati ad intervenire Sergio ed Alessandro, fra un po' li ascolteremo, a tra pochissimo. Cuore e denari. Lunedì scatta, lo hanno già detto in extremis, il primo appuntamento fra il fisco e Airbnb e tutti i portali che si occupano di affitti brevi, perché entro lunedì vanno versate le imposte relative agli affitti a partire, appunto, stipulati a partire dal 1 giugno. Si tratta di una tassazione secca del 21% che viene trattenuta direttamente dagli intermediari, quali a loro volta devono girare gli importi alle entrate. Tutto così semplice? No, perché ci sono come sempre tante situazioni molto differenziate sul territorio, qualcuno che la vede anche un po' a modo suo, qualcuno che non ha, anche se ha stipulato appunto gli affitti, come ci spiegava poco fa Cristiano Dell'Oste, dopo il termine di partenza, diciamo così, della norma, in realtà non ha effettuato nessuna trattenuta a carico dei delle persone che si sono appunto affidate a questi intermediari, e quindi non si capisce bene che cosa pagheranno lunedì. Detto questo, ci sono degli ascoltatori pronti ad intervenire all'800 24 00 24. Il primo è Sergio da Milano, che salutiamo, benvenuto. Buongiorno, deliziose. Già questo ci piace, Sergio, deliziose. Vada, Sergio, che abbiamo pochissimi minuti. Allora, niente, il discorso è questo: io lavoro con Booking, il quale non incassa per ancora per un po', anche se io e tanti altri glielo stiamo chiedendo, ma il discorso è questo: la tassazione si applica a quello che ha pagato il cliente, quindi che sono inclusi anche i denari che prende di commissione l'intermediatore, oppure sul netto? Perché il discorso è che, per esempio, ci sono commissioni piuttosto alte, tipo quelle di Booking, che sono il 15%, ok, e sulle quali io non vorrei pagare le tasse, vorrei che Booking pagasse le sue di tasse. Chiarissimo, Sergio. Allora, su questo punto le entrate hanno chiarito questo aspetto, Cristiano, o le entrate non dicono nulla? Sergio, allora, dove può trovare un'interpretazione, certo, rispetto, certo, a questo dubbio? Ma allora, diciamo che la sua domanda è una domanda più generale, che non riguarda soltanto l'obbligo della ritenuta. Allora, anzi, nel caso specifico, siccome Booking, come ci dice il nostro ascoltatore, in questo caso non riscuote il canone, Booking non è tenuto a applicare la ritenuta. Quindi il nostro ascoltatore ha semmai un altro problema, che è quello di capire se la commissione che paga al portale la deve dichiarare o meno. Allora, se noi andiamo a vedere il provvedimento delle entrate con le istruzioni per la ritenuta, ci dice che sostanzialmente la ritenuta si va ad applicare sul corrispettivo lordo, e dice che cos'è il corrispettivo lordo derivante dal contratto di locazione? È l'ammontare dovuto dal conduttore in base al contratto, cioè quello che deve pagare l'inquilino. Quindi teoricamente sostanza, le commissioni ci sono dentro. Se è l'importo lordo. Beh, attenzione, no, però, perché le commissioni non sono canone. Certo. La commissione non è il canone incassato. Però è un importo lordo versato all'intermediario. È un importo che il proprietario versa all'intermediario. Qual è il punto? Che il proprietario deve andare a dichiarare in dichiarazione dei redditi il canone. Ok? Quindi io prendo 100 euro di canone, quelli dichiaro. Se poi io verso una commissione del 15%, cioè, quella commissione dovrebbe essere una spesa. Però qual è il problema? Che con i redditi fondiari, i redditi derivanti dagli immobili, non esiste il principio della deduzione come nel reddito d'impresa. E quindi la regola dice che se io ho delle spese, se sto in tassazione ordinaria ho una deduzione a forfè del 5%, se sto in cedolare devo dichiarare il 100% del canone. Ecco perché il nostro ascoltatore dice: ma io quel 15% lo vorrei poter dedurre. In realtà la regola non funziona così, ecco, nei redditi fondiari, al momento. Certo. Alessandro da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, anch'io sono un proprietario e volevo fare due domande. Prima di tutto, se io invece affitto privatamente, come mi devo comportare? Esiste questa cedola? Non esiste? come si calcola e come faccio a pagarla. Mm-hmm. E poi capire se comunque noi proprietari siamo tenuti a verificare questa cosa, perché poi si possono rivalere su di noi meccanismi sanzionatori per chi non è in regola. Alessandro, la ringrazio. Allora, Alessandro non utilizza intermediari né canali online per affittare il suo immobile, però bisogna capire. Alessandro, comunque affitti brevi, perché noi stiamo parlando di mondo. Sì, ecco. Affitti brevi. Cristiano. Dunque, in questo caso... La domanda è pertinente. Certo, assolutamente, una domanda anzi utile, perché ci permette di precisare cosa succede. Allora, il nostro ascoltatore affitta una casa, supponiamo... una casa al mare, e l'affitta senza utilizzare intermediari e canali online per il mese di agosto. È la casa che avrà, non lo so, ad Ostia. Benissimo. Ammettiamo, ecco, cosa succede? Allora, il nostro ascoltatore redige il contratto, perché bisogna redigerlo per iscritto anche a propria tutela, in sostanza, se lo scambia con la controparte, lo firma, incassa il canone e fin qui non è tenuto a fare nessun adempimento se il contratto ha una durata non superiore a 30 giorni. Se il contratto ha durata superiore a 30 giorni, invece lo deve registrare all'Agenzia delle Entrate. Prima cosa. Immaginiamo che il contratto sia breve. I suoi adempimenti sono finiti in questo modo. Lui l'anno prossimo, quando presenta la dichiarazione dei redditi, deve indicare in dichiarazione dei redditi i canoni che ha percepito. C'è una modalità di compilazione che adesso non possiamo spiegare, ma che in sostanza fa sì che lui debba dire che ha percepito quei canoni in virtù di contratti che duravano meno di 30 giorni e deve indicare, certo, quanti giorni erano, diciamo, qual era la durata dei contratti. E poi, dopodiché, se vuole scegliere la cedolare secca al 21%, c'è sostanzialmente una casella della dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo in cui va a fare una spunta e quindi opta per la cedolare su quei contratti. Questo esaurisce, diciamo, i suoi obblighi. Se invece il contratto fosse lungo, quindi superiore a 30 giorni, o anche breve, e lui scegliesse di registrarlo per suoi motivi di tutela, di interesse, insomma, questo possono essere varie le ragioni, e non è vietato, diciamo, anche se è un passaggio in più, allora se il contratto viene registrato, in quel caso la cedolare deve essere scelta nel momento in cui lo si registra. Chiarissimo. Ecco, questo è la differenza. Senti, stiamo chiudendo, Cristiano. Allora, facciamo... Sì, devi completare questo. Sì, no, aveva chiesto un'altra cosa. Diceva, ma io come proprietario cosa devo fare nel caso non mi venisse fatta la ritenuta da un intermediario tenuto a farla? Certo. Diciamo, l'importante è che se non viene praticata la ritenuta, io vada a liquidare in modo completo le imposte sul canone. Tassazione Dopodiché, ordinaria. Esattamente, tassazione ordinaria o cedolare, ma comunque che io la pago per intero, non essendomi stata fatta la ritenuta. Chiarissimo. Senti, ritorniamo invece al proprio tema circoscritto di cui stiamo parlando questa mattina. Locazioni brevi. Io, Deborah Rosciani, affido ad un portale online la mia abitazione delle vacanze e la metto appunto a disposizione di una platea di utenti per i periodi appunto brevi, ammettendo di aver reso visibile questo immobile da gennaio, per esempio, no? E quindi l'ho già affittata per periodi brevi questa abitazione in un regime appunto pregresso rispetto a quello che è partito il 1 giugno. Allora, ecco, per queste situazioni un po' di incertezza, il locatario, la persona che affitta questi immobili, come deve regolarsi? Beh, bisognerà fare attenzione nella prossima dichiarazione dei redditi, perché probabilmente moltissimi proprietari avranno dei canoni sui quali è stata applicata la ritenuta, perché bisognava applicarla, dei canoni su cui non è stata fatta perché eravamo prima dell'entrata in vigore del nuovo obbligo, e magari addirittura dei canoni incassati dopo l'entrata in vigore del nuovo obbligo, sui quali io non mi sono appoggiato a un portale e quindi la ritenuta non andava. Quindi ci potranno essere molte combinazioni. Io dovrò stare attento e capire se su quel canone la ritenuta non c'era e quindi io lo dichiaro e pago la tassazione completa, oppure se invece su quel canone la ritenuta doveva esserci e non c'è stata, o ancora c'è stata perché doveva esserci. Ne vedremo delle belle quest'estate, ho la sensazione. Possiamo scrivere all'esperto risponde? Assolutamente, ricordiamo l'indirizzo online che è ilsole24ore.com/, cioè barra inclinata, esperto risponde, lì insomma si può inviare i quesiti e poi le risposte appaiono tutti i lunedì nell'inserto in edicola col sole. Benissimo, Cristiano, grazie per essere stato con noi, ti auguro un buon grazie weekend. Grazie a voi, grazie a voi. Noi andiamo a sentire il giornale radio. Direi, vieni con me. Ottima idea. A tra poco. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, e se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Sono Giampaolo Musumeci. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano, tutte le domeniche alle 19:10 su Radio 24. cuore e denari. Volare, volare, oh, oh, oh, oh, oh, cantare, cantare. Sai quanto hanno cantato i signori che sono rimasti intrappolati in questa disavventura di cui racconteremo tra poco? Più che cantare ne avranno tirate giù di santa ragione. Allora, come sapete, non tutti possono permettersi di fare tutte le ferie d'agosto e magari c'è chi spezzetta, no? Un po' a luglio, un po' dopo. Ecco, allora immaginate di aver tanto sognato la prima tranche di riposo, di vacanze, e di avere già avuto il primo assaggio di vacanze rovinate edizione 2017. Qualche giorno fa abbiamo ricevuto questa segnalazione. Rinchiusi in aeroporto per 12 ore senza acqua né cibo, è successo ai passeggeri del volo Parigi-Venezia della compagnia aerea Vueling, che hanno denunciato la loro disavventura al Movimento Difesa del Cittadino. Buongiorno al presidente, l'avvocato Francesco Luongo. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Allora, i dettagli dell'Odissea, che ci danno ancora il pretesto di fare la lista delle raccomandazioni per chi viaggia in questo affollatissimo periodo dell'anno, e la lista dei nostri diritti in caso di vacanza rovinata, ce li racconta direttamente appunto il presidente, che naturalmente ricostruisce per noi anche questo caso, appunto, come dicevo poco fa. Avvocato Luongo, allora, voi avete diramato questo comunicato, corredato peraltro anche di un paio di foto di questi passeggeri lì che stavano aspettando, non so bene in quale sala, non so bene se la foto si riferisse allo scalo di Parigi, in questo momento appunto di attesa con il volo bloccato. Detto ciò, parte tutto da una tempesta che è arrivata sulla capitale francese, cose che possono capitare, ma che addirittura oggi si fermino tutti i voli appare un po' improbabile, a meno che non sia una tormenta di neve che seppellisce una città, ma diciamo che luglio non è esattamente il mese in cui si verifica. Ci racconta che cosa è successo e cosa hanno denunciato i vostri associati? Ma sì, in pratica cominciamo con le odissee da low cost. Il low cost ci permette di viaggiare, ma dobbiamo essere molto attenti. Le associazioni dei consumatori d'estate non riposano naturalmente come sempre, e quindi abbiamo recepito e divulgato immediatamente questo primo caso eclatante di Odissea che si è svolto a Venezia, dove praticamente un intero volo con i suoi passeggeri sono rimasti bloccati in aeroporto. Gradualmente, quindi, è stato uno stillicidio, perché è iniziata questa disavventura con un ritardo di sole 2 ore. Ma è successo a Parigi, non a Venezia? È successo a Parigi la tempesta. Il volo era un Parigi-Venezia, naturalmente. Beh, Parigi-Venezia, sì. E in pratica i nostri amici sono rimasti prima bloccati ai controlli di sicurezza, poi sono stati fatti salire sull'autobus, è cominciato un nuovo giro, sono ritornati agli arrivi nuovamente, hanno preso il volo insomma alle 5:30. Il problema è che sono rimasti completamente privi di assistenza. E questa cosa è veramente terribile, perché è in violazione di quella che è la normativa, il regolamento comunitario, che voglio ricordare, prevede un obbligo di assistenza, pasti, bevande, in relazione alla durata dell'attesa, addirittura la sistemazione in albergo, il trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, chiamate telefoniche. E voglio ricordare che è previsto anche la compensazione pecuniaria. Esatto. Purtroppo Vueling non è nuova a questi. Esatto, infatti, questi avvocato, problemi. Perché è lì che volevo arrivare, no? La tempesta di Parigi non è colpa di nessuno, c'è però da dire che questa compagnia low cost non è nuova a queste pesanti disattenzioni nei confronti dei passeggeri, come in questo caso. Peraltro anche tutte le regole della riprotezione e assistenza non le impartiscono le associazioni dei consumatori, ma ci sono delle precise direttive europee che vengono recepite dai paesi. E su questo ormai i nostri standard viaggiano su livelli altissimi. Detto questo, per questa compagnia ogni estate ce n'è una. Sì, il problema è che recentemente è stata anche sanzionata dall'antitrust con un provvedimento che speriamo induca anche le altre compagnie low cost ad assumere dei comportamenti più corretti. Il punto è c'è la tempesta, può esserci anche un uragano, proprio per questo la compagnia aerea, in base al regolamento europeo, è tenuta a garantire ai propri passeggeri una adeguata ospitalità, non potendo lasciarli in aeroporto senza nessuna assistenza. Mm-mm. Questo vale per Vueling, ma vale per tutte, esatto, le compagnie aeree. Altro problema è rappresentato dalle modalità spesso di interazione con queste compagnie low cost. In particolare l'antitrust ha verificato che Vueling, proprio per i reclami, prevedeva un numero a pagamento che poteva arrivare a costare anche 15 euro a telefonata al passeggero che intendeva inoltrare un reclamo, ovvero un form via internet di cui non era garantita alcuna tracciabilità per quanto riguardava la comunicazione, certo, del consumatore, del viaggiatore. Questo appunto si riferisce alla multa da 1 milione di euro che hanno preso proprio pochi giorni fa. Comunque, tornando adesso, non li abbiamo neanche interpellati, magari anche loro hanno sicuramente le loro giustificazioni rispetto a quello che è successo su questo volo Parigi-Venezia. Detto questo, il Movimento Difesa del Cittadino raccoglierà, avvocato Luongo, le denunce dei passeggeri e farete poi il consueto esposto all'ENAC, l'ente appunto di controllo dell'aviazione civile, chiedendo di verificare l'idoneità addirittura della compagnia a continuare ad operare. Vedremo come finirà questa vicenda. Chi sta partendo adesso con una compagnia low cost, che naturalmente ha tutta la sua validità perché ha consentito questo mondo negli ultimi anni, appartenendo all'universo della sharing economy, di viaggiare a costi ragionevoli e di dare queste possibilità ad un numero molto più ampio appunto di persone che magari in passato un volo aereo non se lo potevano permettere, parliamoci chiaro. Per chi sta partendo adesso, e lo abbiamo fatto anche un po' spaventare questa mattina, speriamo di no, quali sono, che ne so, i documenti che si deve portare dietro per avere in testa chiare tutte quelle azioni che dovrà mettere in campo nel caso in cui si verifichi una disavventura? Io mi sono aperta proprio la carta dei diritti del passeggero, che è un documento molto dettagliato sul sito dell'ENAC. Ci dia 3 raccomandazioni, avvocato Luongo, prima di partire. Bene, documento di identità e carta d'imbarco in ordine. Nel caso in cui si manifestino problemi, ritardi, rivolgersi subito al desk della compagnia aerea e reclamare. Nel momento in cui viaggiamo di notte, quindi gli aeroporti, come sa, a volte sono deserti o semi-deserti, chiamare il call center della compagnia o, in caso di totale mancanza di assistenza, per cui in aeroporto non riceviamo alcuna assistenza e non esiste un desk, uno sportello della compagnia aperto, rivolgersi tranquillamente alla polizia aeroportuale per segnalare situazione. Nel caso in cui ci siano ritardi, invece, riusciamo ad imbarcarci tranquillamente per farci la nostra bella vacanza. Per quanto riguarda, ritardi, abbiamo la possibilità di inoltrare un reclamo alla compagnia e, per conoscenza, all'ENAC o a un'associazione dei consumatori, e chiedere un risarcimento di 250 euro per i voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1500 km, 400 euro di compensazione pecuniaria per i voli intracomunitari superiori a 1500 km. Deve essere sempre garantito al passeggero la riprotezione su un altro volo, oppure, come dicevamo prima, la totale assistenza, quindi albergo, pasti, telefonate garantiti a cura e a carico. Senta, avvocato, della compagnia. C'è un ascoltatore che ci scrive: partenza rinviata di 24 ore, non sappiamo bene su che tratta, su che volo, chiesto il rimborso della compagnia. La compagnia risponde che il volo è saltato per causa di forze maggiori, uccelli, dice. Come si va a verificare che non sia una scusa e che quindi la giustificazione adottata dalla compagnia aerea non sia appunto così una giustificazione loro, che si fa fatica anche a dimostrare, e però la compagnia dice: questo ci è successo, pertanto non ti possiamo indennizzare. Abbiamo il diritto a sapere veramente come sono andate le cose, ovviamente, se ma la compagnia... Guarda, io posso rispondere anche direttamente al nostro ascoltatore. La presenza di uccelli sul in aeroporto non impedisce il risarcimento da parte della compagnia. La compagnia risarcisce il viaggiatore e poi agirà nei confronti della società che gestisce l'aeroporto, che è tenuta a garantire che l'aeroporto sia sgombro da pericoli che purtroppo possono essere rappresentati in alcuni casi anche dagli uccelli. Quindi in questo caso non si tratta di forza maggiore, perché gli uccelli sono animali splendidi che si trovano dappertutto. È possibile che si trovino in quelle zone quando parte un volo. Non è un dinosauro, ecco, diciamo che potrebbe essere un po' strana come scusa. Avvocato Luongo, devo salutarla perché noi abbiamo terminato, poi le farò parlare magari in privato con Bruno, un ascoltatore che invece ci racconta che sempre su un altro volo alla hostess è scappato il carrello che gli è arrivato dritto sul ginocchio. Quindi Nicoletta, qua una situazione cuore e denaro, dobbiamo andare dall'ortopedico, poverino. Lui intanto nel frattempo è andato da un legale, ecco, perché evidentemente si è fatto male e vuole essere risarcito anche per questo, ma insomma si lamenta, la compagnia neanche risponde, che è la cosa peggiore secondo me. Quantomeno mettete nero su bianco le motivazioni per cui un certo tipo di assistenza non potete farla, perché non siete nel dovere di farla, ma carta canta anche per voi, lo dico alle compagnie aeree. Avvocato, grazie, buone vacanze, ci faccia sapere come finisce questa vicenda. E noi continuiamo a vederci chiaro. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso... Siamo in diretta Facebook dall'aereo che non e è partito. Balla, e si balla. Alla missione Ferro della sonda Juno, che ha compiuto il primo sorvolo ravvicinato della macchia rossa di Giove. Che c'entra? Che ci azzecca, direte voi? Con Laura Vanossi ci è caduto l'occhio su questa notizia e macchia, ci è venuta in mente subito le macchie, molti di voi ci scrivono, soprattutto in questo periodo, vedo le macchie quando guardo il sole, poi riguardo la parete bianca, che cosa saranno, sono vermicelli, macchiette, ma anche macchia l'abbiamo subito associata a quelle macchie sull'informazione, su quei buchi, chiamiamole con il loro nome, bufale. E allora, per vederci chiaro su tutto questo, ma anche per capire i segnali che i nostri occhi ci mandano e quindi per intercettare eventuali segnali di disagio nostri e dei nostri bambini, abbiamo il piacere di avere qua un grandissimo esperto, il professor Paolo Nucci, direttore della clinica oculistica universitaria all'ospedale San Giuseppe di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuto. È presidente della Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica. Ha scritto monografie, una mole di articoli scientifici, ricopre incarichi di insegnamento a Pittsburgh e proprio a Parigi, quindi le è andata bene, poteva essere lei a Parigi sul volo. Ma soprattutto faremo una chiacchierata in cui cercheremo proprio di fare chiarezza. Lo faremo anche partendo da un libro molto interessante che il professor Nucci ha scritto con un altro grande personaggio, che è Stefano Zecchi. Che qui fa la parte del papà. Esatto, si intitola Aiutami a capirlo, l'incontro tra il medico, il genitore e il bambino. Anche in questo modo cercheremo di vederci chiaro. Da che cosa vuole partire, professor Nucci? Dalle macchie, perché ne vediamo tutti i giorni, di pazienti che arrivano da noi in studio preoccupati perché vedono queste macchie. Nel 95% dei casi le macchie sono legate a dei corpi mobili vitreali. Tenete conto che l'occhio ha un sistema chiuso che contiene questa sorta di albume, questa specie di gel trasparente che negli anni tende un po' a coartarsi, quindi si raggrinzisce e presenta alcuni filamenti che sono nient'altro che proteine denaturate che cominciano a roteare. Quando noi osserviamo una parete bianca oppure il cielo o guardiamo verso il sole, ci accorgiamo che esiste un maggiore contrasto e percepiamo queste ragnatele. Queste ragnatele in linea di massima sono veramente innocenti, ciò non di meno un controllo della retina è opportuno. Ci sono altre macchie che sono quelle invece fisse, quando la macchia non si muove, non si vede galleggiare, fluttuare, quella è una macchia un po' più importante. Lì sicuramente il controllo specialistico è necessario, perché lo specialista è in grado di individuare per esempio delle piccole emorragie, che sono l'altra causa frequente, ma parliamo sempre di quel 5% che non ha la condizione innocente. In questo caso devono essere fisse, quindi io le vedo per tutto il giorno o solo in alcune posizioni? Tutto il giorno e sempre nella stessa posizione. Uno dei segni iniziali, per esempio, delle maculopatie è proprio questo. Uno dei segni iniziali della emorragia nella retinopatia diabetica è proprio questo. Quindi direi che sono comunque macchie fisse e nell'ambito del campo visivo devono essere inquadrate da uno specialista oculista. Alla mia bimba di 10 anni da sempre gli danno un po' fastidio le luci di notte, tipo semafori, neon, eccetera. Ci scrive Leo da Firenze. I nostri ascoltatori dalla sua qualifica hanno subito intercettato, ma anche dal titolo del suo libro, che lei è un grandissimo esperto. Un esperto. Bene, però diciamo che c'è anche una letteratura scientifica, una produzione che parla. Grazie. E quindi ci sono dei medici che lavorano e fanno anche ricerca e sono un po' dei fiori all'occhiello, no, della nostra medicina anche all'estero. Lei mi vuole bene da troppo tempo. No, io dico ci sono le pubblicazioni che parlano, poi non per questo se anche uno magari non pubblica è un ottimo medico, ma ci piace raccontarlo perché ci piace anche parlare bene della buona sanità, perché ce l'abbiamo. Professor Nucci. L'oculistica italiana io credo che sia veramente una delle migliori specialità che ci sono, io direi nel mondo, nel senso che noi siamo stati i primi dei pionieri in molti ambiti. Questo perché siamo contraddistinti da una grande curiosità, e la curiosità è alla base, secondo me, e poi anche l'ambizione, naturalmente, il farsi conoscere, quello è importante. Noi siamo dei pubblicatori perché siamo degli esploratori, esploriamo e quindi siamo... Poi l'oculista deve vederci chiaro, certo. Giusto? È quello. Se voi invece non vedete tanto chiaro, ma siete ad esempio miopi, astigmatici, ipermetropi, se notate che proprio con queste giornate più lunghe, più luminose, alcuni disturbi della vista si acuiscono, altri invece magari si modificano, chiamateci all'800 0024 0024. Ma prima rispondiamo a Leo, che ci ha scritto per la sua bambina di 10 anni, infastidita da queste luci alla sera, semafori, neon. Allora, la causa più frequente di questi aloni colorati intorno alle luci in età pediatrica è una lacrima che è un po' più densa. È come se si trattasse di osservare attraverso un parabrezza leggermente più sporco. Sì. Quindi quando la lacrima è un po' inefficiente, noi percepiamo degli aloni colorati intorno alle luci. In linea di massima questo è una conseguenza delle allergie. I bambini allergici lamentano questo tipo di sintomatologia, che anche questa è piuttosto innocente. Certo, dietro ci possono essere altri aspetti, per esempio l'aumento della pressione dell'occhio, cheratiti, cioè sofferenze del tessuto corneale. Però, Nicoletta, una volta le ho detto che se io sento un nitrito in piazza San Babile è più probabile che sia un cavallo piuttosto che una zebra. E quindi pensiamo alle cose banali. Credo che si tratti di un'allergia e quindi va in qualche modo inquadrato in questo senso. 800 24 0024, la Deva ride, esatto. Anche penso, immagino, gli juventini, perché tu lo sei. Dobbiamo proprio svelare invece tutti i misteri. Invece io sono un cuore granata, ecco. Filippo Aureggi non è nessuno. E non pervenuto. Squadra. Laura Vanossi è interista, ma... Con dei conflitti lei? Forti in Beh, casa. Guardi, io sono sostanzialmente un cosentino e faccio tifo per la mia squadra, che purtroppo è in Serie C, però sono anche un interista e quindi... Va bene. Mamma mia. Cioè a Milano non si può non essere interisti, credo. Va bene. Insomma. Allora, 800 24 0024, professor Nucci, a proposito di vederci chiaro, vorrei con lei aprire una parentesi sulla miopia, perché ho letto che non solo è il difetto della vista più diffuso, perché interesserebbe il 30% della popolazione europea, ma aumenta nel tempo. È previsto che nel 2050 saremo quasi tutti miopi. È una bufala o c'è da crederci? No, c'è da crederci, nel senso che le nazioni più scolarizzate hanno già delle figure percentuali altissime. Pensi che Singapore supera il 75% in termini di miopizzazione della popolazione giovanile. Nel 2050 si stima che questo 30%, che è già considerevole, perché rispetto alla mia generazione, io sono del 60, la miopia era, non dico occasionale, ma non riguardava più del 5-8% della popolazione. Oggi siamo arrivati a delle percentuali in Europa vicine al 30%, quindi vuol dire che insomma uno su tre di questi bambini diventerà miope. A Singapore si arriva al 75-80%. È certo che questo ha a che vedere con due aspetti. Uno, la scolarizzazione maggiore, la maggiore attività da vicino, che stimolando l'occhio a lavorare da vicino rende, come dire, la miopia quasi conveniente, quindi il nostro sistema si adatta. Voi sapete che il miope da vicino riesce a vedere molto meglio e quindi tendenzialmente noi andremo verso questa miopizzazione. Il secondo aspetto è quello che ci chiudiamo sempre di più in noi stessi. Usciamo poco all'aria aperta e i raggi ultravioletti hanno un effetto estremamente positivo sulla vista, perché attraverso i raggi ultravioletti noi stimoliamo un mediatore chimico che si chiama dopamina, e questa dopamina ha la funzione di irrigidire la sclera. E quindi l'occhio, anziché continuare ad allungarsi, come succede nel miope quando comincia a diventare un miope importante, rimane un pochino più contenuto. Voilà. Segue con interesse, come sempre, ma in modo particolare Laura, che la vedo di là e so già che cosa vuole chiedere. Credo molti ascoltatori che hanno magari figli, loro stessi hanno dei disturbi refrattivi, papà, mamma. Quante probabilità ci sono che il figlio possa avere un disturbo refrattivo, e da chi lo prende, dalla mamma o dal papà? Beh, lo prende da tutti e due, ma non prende il difetto refrattivo, prende la predisposizione al difetto refrattivo. Poi certamente la funzione ambientale ha il suo ruolo, e quindi è vero che se lei va nelle tribù Masai, è vero che i genitori miopi sono rarissimi, però è anche vero che si tratta di bambini che imparano ad andare a caccia dove è più funzionale guardare da lontano, e quindi sono in qualche modo protetti. Certo. Dalla miopizzazione. Se lei, ripeto, va in queste nazioni iperscolarizzate, mi viene in mente Giappone per esempio, bambini miopi sono quasi la regola. Quindi lo studio ravvicinato, l'attività ravvicinato in un substrato genetico che è predisposto, fa il paio e il bambino diventa miope. Noi non siamo miopi, perché io leggo bene, sono le 11:30 ed è il tempo di dare ai mercati, stacchiamo, ecco, andiamo. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Occhi neri, occhi neri, assoluti e sinceri. Siamo tornati insieme al professor Paolo Nucci, parliamo dei disturbi della vista. Cerchiamo di fare chiarezza sui disagi e anche sulle bufale che circolano proprio sulla salute dei nostri occhi e su quella dei nostri bambini. Abbiamo parlato di miopia, anche in questo campo ci sono tante informazioni che si possono leggere su internet. Ci sono delle novità? Ci sono invece dei luoghi comuni, delle bufale che bisogna smascherare? Allora sì, diciamo che delle novità ci sono e arrivano sempre da questi paesi orientali che vedono questo incremento della miopia come un problema sociale rilevante, anche perché dietro la miopia ci sono complicazioni. Due studi molto importanti, uno è l'ATOM, Atropine Treatment of Myopia, che sono stati portati e condotti avanti per 10 anni, studi di popolazione importanti, ci dicono che in effetti utilizzare questo mediatore, che è l'atropina, che noi utilizziamo quando dilatiamo la pupilla, in dosaggi centesimali, quindi molto molto bassi, attenzione, non omeopatici, ma dei dosaggi ovviamente efficaci ed efficienti da un punto di vista farmacologico, ha un effetto positivo. E qui entra in gioco questa famosa dopamina, che è un mediatore che noi studiamo da moltissimi anni, ma mai c'era stata una dimostrazione su uno studio clinico di popolazione così importante che dicesse che c'era una discreta efficacia. Noi lo stiamo praticando da alcuni anni e devo dire che in Italia ci stanno seguendo in tanti. Non si tratta più di uno studio, ma esistono già pubblicazioni dal 2002 sull'efficacia di questo trattamento, e 6 bambini su 10 rispondono bene. Guardate che quando parliamo di studi di popolazione ci riferiamo a un numero enorme di pazienti su cui poi viene fatta una sorta di analisi che valida il principio da cui siamo partiti, cioè l'ipotesi che noi dobbiamo dimostrare. È vero che dietro questo studio c'erano anche delle osservazioni secondarie che si sono fatte, e una di queste conferma che la outdoor activity, cioè l'attività all'aria aperta, ha altresì efficacia. Che cosa voglio dire con questo? Non che bisogna stare tutto il giorno all'aria aperta oppure osservare il sole perché i raggi ultravioletti sono positivi e perché è questo, ma l'attività all'aria aperta presuppone intanto una buona stimolazione retinica, un maggiore contrasto, e probabilmente questo che stimola queste famose cellule orizzontali della retina a produrre la dopamina, ma si sollecita l'attività in spazi ampi. Questo significa outdoor activity. Quindi quella lettera che lei prima mi mostrava del signora che dice: ma come, ci dite che ci dobbiamo proteggere da raggi ultravioletti adesso? E questo mi viene a dire che proprio il raggio UV sono quelli che tonificano e fanno, le no? Faccio un esempio molto pratico. Lei sa che da quando eravamo bambini, lei è molto più giovane di me, bravo, ma... così mi piace, adoro gli uomini bugiardi e che ci veniva detto che la vitamina D si legava alle ossa stando al sole. Sì. Poi ci hanno detto che troppo sole ci può dare problemi cutanei. Io per esempio ho avuto un ustione e devo fare ogni anno la mia mappa per i miei nei che sono diventati piuttosto pericolosi. Certo che c'è sempre un bilanciamento nelle cose. Non significa che dobbiamo vivere al chiuso perché c'è il rischio di melanoma, così come non dobbiamo vivere con i raggi ultravioletti in faccia, perché è ovvio che i raggi ultravioletti possono avere effetti di denaturazione delle proteine anche sul cristallino, sulla macula. Ma eccetera. Se io utilizzo le lenti da sole, ho il cappellino con visiera. Io ho comprato un cappello, l'ho portato anche qua in redazione, che è piaciuto molto. Adorabile, molto, sì. Chic, rosso. Se vuole lo firmo. Va bene. Ma i benefici dei raggi UV, i benefici di cui ci parla lei, sì, li ho ugualmente? Ci sono ugualmente. Quindi ci io posso ugualmente andare con cappello, occhiali, che allora, così ho capito Kennedy, che più uno si copre, più hai chance. Sì. Vero, bisogna coprirsi. Coprirsi. 800 24 00 24, voi scopritevi. Andiamo da Paolo, che ci chiama da Treviso, e poi Andrea da Catanzaro. Paolo, buongiorno, che succede? Buongiorno. Tutto lo stivale buongiorno facciamo oggi. Tutto bene, innanzitutto, e grazie per avermi richiamato. Niente, io volevo chiedere al vostro esperto quello che, sì, una conferma, una smentita di quello che si comincia a sentire, leggere in internet, in particolare riguardo ai danni che la luce a LED può fare ai lavoratori, soprattutto esposti per molte ore a lavori magari notturni. Ho letto che in America già sono cominciate le prime richieste di danni dalla voda e da danni provocati dal LED, e volevo capire appunto quanto di vero e quanto di pericoloso c'è. Bravo Paolo, lei ha proprio colto lo spirito di questa puntata. Sfruttiamo anche non solo il professor Nucci come oculista, ma anche come comunicatore, e quindi ci aggiorna in tempo reale della situazione. Strano in queste informazioni che vengono trasferite è che prima che vengano fuori degli studi che poi validano queste ipotesi che ci sono, e anche sono abbastanza ragionevoli, perché luce a LED contengono una maggiore quantità di luce blu che si è visto essere la più dannosa, non quella dannosa, ma è la più dannosa rispetto alle altre radiazioni. Però manca evidenza scientifica. Perché si possa veramente creare un warning, cioè dire no, questa cosa bisogna guardarla con molta attenzione perché può dare dei problemi, ci vogliono dei lavori scientifici. Ad oggi purtroppo questi lavori non ci sono, e le informazioni sono purtroppo spesso veicolate da chi produce degli occhiali che hanno filtri blu eccetera, e che vogliono segnalare l'importanza e il ruolo delle luci blu, degli certo occhiali con i filtri blu. Quindi pochino di mancanza di, come dire, di affidabilità io la leggo dietro questi warning. Certo. Ciò non di meno, noi ancora luci a LED purtroppo non le conosciamo, stiamo cominciando ad utilizzare. Quello che sappiamo però è che studiare e lavorare in un ambiente con luci a LED ti dà un effetto giorno che probabilmente altera la fase veglia sonno, perché la melatonina, perché pare che sia, questa è una cosa che già comincia ad avere qualche evidenza in più. Ecco che poi facciamo fatica ad addormentarci. Abbiamo parlato della melatonina. La bolletta è più contenta, però la vista non tanto. E sì, è proprio tutto il nostro equilibrio, perché noi siamo stati progettati per fare un tipo di vita e ci troviamo a fare un altro assolutamente diversa, e in un tempo molto breve, perché il nostro corpo per adattarsi ha bisogno di tempo e noi il tempo non glielo possiamo dare. Andrea invece è arrivato il suo tempo. Buongiorno, ci chiama da buongiorno Catanzaro. Buongiorno a lei e buongiorno professore. La mia è una domanda di ordine pratico. Vediamo. Io da qualche tempo ho necessità di mettere gli occhiali da vicino perché non riesco più a vedere bene. Ho 50 anni e non riesco a vedere bene. È diventato presbite. Sì, purtroppo. Non è un difetto. Gli anni passano per tutti, lo so. Se non passano, Andrea lo sa dove siamo. Meglio lasciarli passare e contare. Andrea, vada. Sì, sicuro. Ho sentito di queste nuove lenti a contatto che mi toglierebbero questo problema, delle lenti a contatto che risolvono il problema degli occhiali togli e metti. Funzionano? Intende le lenti a contatto progressive che correggono il lontano e il vicino? Devo dire di sì, su piccoli difetti refrattivi sì, cioè se lei non ha grandi difetti refrattivi le lenti a contatto progressive hanno la loro efficacia. Poi dipende anche molto da quanto lei sia contenta della sua visione ravvicinata. Certo, se facesse l'avvocato e dovesse guardare un codice di procedura da molto vicino, eccetera, questi occhiali non sarebbero sufficienti a garantirle la massima correzione. Sa che cosa si utilizza se uno proprio odia gli occhiali a volte? La monovisione. Però per scegliere la monovisione, cioè guardare con un occhio da lontano e uno da vicino, è necessario che l'oculista le dia una sorta di lascia passare, perché deve avere una buona binocularità. Se ce l'ha, per esempio io all'inizio, non volendo portare i progressivi perché non mi ero abituato molto al progressivo, mi sono fatto fare una correzione leggermente più forte da lontano e meno da vicino, essendo miope, mi ha garantito per, ecco, fino ai 50 anni di poterne fare a meno. Perché ci sono delle persone che hanno un certo disagio a indossare gli occhiali e quindi si convertono alle lenti, un po' ad accettare la presbiopia che viene soprattutto per le signore considerata un po', no? È come se tu facessi vedere la carta d'identità, perché ce l'avete spiattellato in tutti i sensi che dopo i 40 anni si diventa presbiti. Avete cercato di addolcirci un po' la pillola dicendo che non è un difetto, vero? È però un consiglio si può dare, ecco, a chi è nella fase della presbiopia incipiente, quindi non nella mia età, non a 57-58 anni, ma quando ne hai 47 e dovresti cominciare ad usare l'occhiale per vicino, conviene aumentare la quantità di luce che arriva sul foglio, aumentare la... Intanto si restringe un po' la pupilla e questo aiuta molto. E poi il contrasto rende più agevole la lettura da vicino se hai un piccolo difetto. Per esempio Deborah e io, che siamo miopi, se tiriamo sull'occhiale non abbiamo nessun problema a leggere da vicino. Infatti io ancora sono... Infatti, quindi fermo. Noi miopi abbiamo solo questo vantaggio. Sono io, fase. Sono perfetta, che devo dirvi? Disse togliendosi gli occhiali. Quindi possiamo dire che ai nostri ascoltatori, Laura Vanossi farà un piccolo taglietto. Questa è la ginnastica per oculare e il trucco per allontanare la presbiopia, questo di illuminare. Mi faccia fare un titolino che acchiappa, perché noi dobbiamo essere scaricate, professor Nucci, no? No, non in senso negativo, naturalmente. In senso negativo, ma molto no, scaricate perché dal è probabile, web. Ma comunque molto, molto scaricate. Per cui siamo un po' nelle vostre mani, di voi che dite delle cose interessanti e noi che le mettiamo in modo stuzzicante sulle nostre pagine. Esatto. Ecco, questo io è un po' dietro alle quinte. Allora, la ginnastica che si può fare per il presbito è quello di non indulgere subito con l'occhiale da vicino, cioè non è necessario che uno riesca a vedere veramente il carattere piccolissimo del bugiardino dei farmaci, per cui portare l'occhiale da subito, ovviamente lavoro permettendo, non è consigliabile. Quella è una buona ginnastica, però non ha molto senso neanche continuare a sforzarsi per fare quello che è il nostro lavoro quotidiano. Guardate che per noi la vista da vicino è molto più importante della vista da lontano, non ce ne accorgiamo, ma quando si diventa presbiti, se poi ti tolgono l'occhiale per vicino, ti senti proprio assolutamente incapace di fare tutto. Allora è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade. Ritorniamo, lei ha detto che questa ginnastica, questa luce fa stringere un po' la pupilla. Abbiamo una mamma, ecco, la pupilla, facciamo proprio un focus sulla pupilla. In un bambino la pupilla, nella maggior parte dei casi, cioè esiste una anisocoria fisiologica, però la pupilla deve reagire. Se la pupilla reagisce non ci sono problemi, se la pupilla invece rimane un po' fissa è qualcosa che deve essere sempre indagato dall'oculista e anche dal neurologo. Ci fermiamo e ritorniamo. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, sono le 11.47, vi dico subito che abbiamo poco meno di 10 minuti, ma che il nostro numero verde è attivo all'800240024, parliamo della nostra vista in occasione dell'estate, qualche cosa cambia, abbiamo cercato di chiarire alcune bufale che circolano proprio sulla salute dei nostri occhi, ma soprattutto il professor Nucci ci ha aggiornato sulle nuove terapie che vengono adesso studiate, validate per la cura della miopia, un disturbo molto frequente che sta significativamente aumentando. Voilà. fatto il sunto. Perfetto. Ma volevamo fare un portare la vostra attenzione sulla pupilla. Suggerito un messaggio di una nostra ascoltatrice: un bambino di 6 mesi ha una pupilla meno reattiva dell'altra, per cui spesso è più piccolo, una prima visita oculistica tutto bene, poi ci hanno detto di andare dal neurologo. Questa lei in parte ha già risposto, professor Nucci, ma io vorrei che lei, come un po' fa nel suo libro, desse agli genitori gli strumenti per occuparsi della vista dei loro bambini e nel caso di relazionarsi con lo specialista. Una relazione molto difficile, perché lei sa meglio di me, poi lei vede ogni giorno nel suo ambulatorio genitori e bambini molto piccoli. C'è questo triangolo che deve essere costruito e gestito con grande attenzione. Davvero. Perché i minuscoli, come li chiama lei, non parlano, e spesso noi genitori parliamo e siamo giustamente in ansia per la loro salute, e questo rende il triangolo un po' zoppo. Mi taccio e vado alla pupilla. La pupilla va sempre considerata come un elemento che è, diciamo, il lascia passare delle informazioni al cervello, per cui se la pupilla non si muove bene c'è certamente una via che trasferisce questo messaggio che deve essere indagata. Ecco perché ha fatto bene il collega a segnalare che magari il parere del neurologo sia necessario. La condizione che a noi interessa è la cosiddetta Horner, è una condizione nella quale esiste un simpatico un pochino meno attivo e quindi la pupilla si dilata di meno. Se questo è il caso della bambina, ci sono molte situazioni delle Horner congenite, quindi di nessuna rilevanza, ma ce ne sono altre nelle quali invece ci possono essere degli elementi di disturbo su questo filo elettrico che collega la pupilla al cervello. E allora lì è che è importante il neurologo. Io generalmente noi le gestiamo un po' in autonomia, nel senso che quando ci rendiamo conto che c'è qualche elemento di troppo, oggi per fortuna si fanno degli esami neuroradiologici senza radiazione. Una volta si ci pensava moltissimo a fare un attacco, oggi la risonanza per fortuna viene effettuata senza alcun impiego di radiazioni, e anche la piccola sedazione che a volte è necessaria è innocente, perché poi l'esame in realtà si completa in 12 minuti, quindi non si tratta di sedazioni prolungate e sono sedazione, cioè il bambino in realtà è addormentato. A volte i genitori sono così bravi da dormire insieme al bambino nel tubo, quindi diciamo che l'esame diventa anche qualcosa di più gestibile anche senza anestesia, ma in questi casi, se è necessario, forse la risonanza magnetica è proprio l'elemento dirimente, quello che ci lascia tranquilli. Ecco, mi è piaciuto molto del suo libro, aiutami a capirlo, questi consigli e la descrizione di alcune situazioni in cui i genitori, sicuramente molti genitori, si ritrovano per problemi seri di salute, ma anche per problemi molto piccoli, certo, che accompagnano proprio la crescita dei nostri bambini. Quello di cercare con il medico un'alleanza, professor Nucci, lo sappiamo che fa il bene del nostro bambino, ma non è così facile, perché bisogna anche, come scriveva un nostro ascoltatore, essere fortunati e incappare nel medico che vuole farla, e quindi non è massacrato dal tempo, dalla fretta, e anche quando si trova un medico che ha voglia di farlo, non sempre siamo capaci di tirarci via quella corazza e di realizzare la buona relazione che ci vuole tra medico e paziente. Un genitore particolarmente ansioso è un grande ostacolo alla comunicazione. Un medico frettoloso, magari a volte neanche per colpa sua, ma perché è oberato dagli impegni, è quello un ostacolo ancora maggiore. Guardi, adesso non vorrei uscire fuori dal seminato, ma voglio dire, questa vicenda del bambino, di Charlie, che ha coinvolto tutti quanti, perché certo, molti di noi sono genitori, e quindi vedersi dalla parte del genitore ti fa leggere le cose in maniera diversa. Vedersi dalla parte del medico, che deve comunque continuare una terapia inefficace e, tra virgolette, mi permetto di dire, dolorosa per un bambino, è un altro aspetto etico. Che cosa è mancato lì? Che cosa è mancato in questa vicenda di Charlie? Chi ha sbagliato? È mancata l'alleanza, cioè il medico non è stato in grado di segnalare al genitore che quella scelta forse era opportuna per il bambino. Cioè, ma nessun genitore accetta, certo, che il proprio figlio possa essere, come dire, staccato da una macchina e lasciato morire. Nessuno è la nostra può fare. Vita, certo. Però dall'altra parte il medico non ha saputo comunicare che il deterioramento delle funzioni vitali del bambino lo stava portando ad una sofferenza praticamente inutile. E quello che non mi è piaciuto in questa vicenda è stato questo fatto che ognuno ha cercato di dire la sua. Sono situazioni così dolorose e penose, guardi, credo anche per i medici, sono sicuro anche per i medici, che è vedersi etichettati come freddi burocrati da una parte, dall'altra i genitori invece come dei presenzialisti che volevano solo visibilità, è una cosa dolorosa. Sono aspetti di un'intimità assoluta, sì, dove certamente quello che è mancato è stata la buona alleanza che ci deve essere tra medico e genitore. Grazie per questa, così, per questo punto della situazione da cui possiamo così partire per una riflessione. E ritorniamo sulle domande dei nostri ascoltatori, ultimi minuti di trasmissione. È vero che con il laser per la miopia, ci scrive un ascoltatore, non si vedrà mai molto bene e può essere addirittura pericolosa? Allora, se il laser viene effettuato dopo aver garantito al paziente che tutti i parametri di sicurezza ci sono, è come fare il check su un velivolo, è molto probabile che l'aereo arrivi dove deve arrivare. Molto spesso le aspettative del paziente sono aspettative altissime, anche per difetti che sono parzialmente correggibili, ma sui piccoli difetti possiamo dire che il risultato sarà comunque buono. Che cosa succede a volte nel paziente? Che quando tu fai il trattamento laser, in realtà stai ustionando un tessuto che è come un vetrino d'orologio, che è trasparentissimo. Questo vetrino d'orologio che viene ustionato naturalmente non avrà la stessa uniformità della cornea con cui noi siamo nati. In più il film lacrimale non sarà più così buono, e questo in soggetti particolarmente emotivi, anche ansiosi, un po' pignoli, e può segnalare un piccolo disagio visivo, per esempio gli aloni colorati che si vedono intorno ai fari di notte, eccetera. Ora, ci sono pazienti che li tollerano e dicono grazie mille volte al medico perché gli ha tolto questa protesi che lo fa vivere, ci sono altri pazienti che invece diventano intolleranti perché questo disagio rappresenta per loro un problema enorme. Professor Nucci, noi ci salutiamo, grazie per essere venuto, intervenuto a Cuore Denari con la nostra diretta Facebook, noi ci sentiamo presto. Ricordo il titolo del libro, Aiutami a capirlo, l'incontro tra il medico, il genitore e il bambino, di Paolo Nucci e Stefano Zecchi, con l'introduzione di Elena Meli. Grazie. Bene, noi grazie. Torniamo lunedì e naturalmente a tutti buon fine settimana, state un po' all'aria aperta che vi fa bene per la vista e non solo. Ciao ciao.